Sono entusiasta del messaggio che condividerò con voi questa mattina. Spero che anche voi siate entusiasti con me. Che bello che siete così, siete bellissimi. Dillo alla persona che ti sta a fianco, dici sei bellissimo, sei proprio bellissimo. Volevo ringraziare Simona e Michael per averci guidato in questo tempo di adorazione. Molto spoglio, ma è bello, bello proprio così, perché si sentono le nostre voci. Vi siete resi conto che è più bello sentire, no, chi stona a destra, chi stona a sinistra, te stesso che ti senti che stai stonando e ti ridimensioni, cerchi di nuovo l'intonazione del canto, ci riprovi. Però è così. Questo assetto mi ricorda, non so se vi ricordate con me, quando eravamo ancora in via Santa Lucia e avevamo il venerdì sera l'incontro di preghiera. Quanti se lo ricordano? In questo incontro di preghiera eravamo proprio riuniti così, a cerchio. E quindi tutti osservavano l'altro. E tu non potevi non pregare perché l'altro ti stava guardando, osservando. Non c'era modo di nasconderti nelle ultime file. E questo è il bello del nostro assetto. Un po' ci incute timore, no? Infatti siamo tutti un po' imbarazzati, un po' che non sappiamo come comportarci, perché c'è qualcuno che ci guarda. Però è bello essere trasparenti, è bello guardarsi in faccia, riconoscerci come Chiesa e ricordarci, siamo qui riuniti per stonare insieme. Amen! È questo che noi facciamo. E mio padre lo grida questo amen perché lo ha sempre fatto, ha sempre cantato, non stonato, ha sempre cantato a Dio. Dio ha una visione per noi. Ci credi? Dio ha una visione per la tua vita. Dio non è disorientato, Dio non è che si inventa quello che devi fare di volta in volta e ogni nuovo giorno è una nuova esperienza per Lui dove deve cercare di trovare la via per i Suoi figli. No, Lui ha segnato una strada per coloro che lo appartengono. Amen, ci credi? In Efesini 2 c'è scritto testuali parole che noi siamo creati in Cristo Gesù per fare le opere che Lui ha precedentemente preparato affinché noi le compiamo. Ci sono delle opere che Lui ha precedentemente preparato. Quanto precedentemente le ha preparate? Beh, fin dalla fondazione del mondo, prima ancora che noi nascessimo, Lui aveva già un piano per le nostre vite. Ci credi a questo? Geremia dice... La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Prima che tu nascessi, io non me lo ricordo bene a memoria, però vorrei provarci, no? La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Prima che... No, non ce la faccio. Qualcuno se lo ricorda con me? Se no lo dobbiamo cercare. Cerchiamolo, dai. Geremia 1. Eppure l'avevo imparata a memoria. Ah, Geremia, grazie, questo l'abbiamo ricavato da venerdì scorso. La parola del Signore mi fu rivolta, che peccato che non me lo ricordo a memoria. Vi capita mai che memorizzate dei versi e poi non li ricordate? Però forse se do una sbirciatina, poi forse ce la faccio. Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Questo non è vero solo per Geremia. Prima che tu nascessi, Dio aveva un piano per te. Prima che tu fossi concepito nel grembo di tua madre, Dio aveva già prestabilito che vita avresti vissuto su questa terra. Non è meraviglioso? Questo ci porta a rilassarci nelle braccia di Dio e dire veramente quello che Gesù ha pregato nel Getsemani, sia fatta la tua volontà. Io vivo qui per fare la tua volontà, quello che tu mi hai destinato a fare, a compiere, a vivere, quello io voglio vivere. Io voglio ricordarci stamattina che noi abbiamo chiarezza di chi Gesù è perché Lui si rivela nelle nostre vite attraverso la Sua parola. E nella Sua parola Gesù ci dice chi è. E fra le tante cose che Lui dice di se stesso, che è la via, che è la vita, che è la verità, che è la resurrezione, che è la porta, c'è una definizione che dà di se stesso. Gesù dice, io sono il buon Pastore. Pastore. Cosa fa un pastore? Un pastore guida. Vero? Un pastore guida il gregge. Infatti il salmista, nel Salmo 23 che noi tutti conosciamo, dice: il Signore è il mio pastore. Lo state leggendo, eh? Non lo sapete a memoria. Oscuriamo gli schermi, vediamo se lo conosciamo. Almeno questo dovremmo conoscerlo a memoria. Il Signore è il mio pastore, Giuseppe. Questo è il bello. Nulla mi mancherà. Capito? Nulla? sotto dettatura. Angelo, questo è il bello di essere a cerchio, no? Mancherai. E poi ve lo ricordo più. Non te lo ricordi più. Nulla mi manca o mancherà. Egli poi mi, ditelo forte, mi più forte, dai, guida, fallo vedere alla persona di fronte a te che stai urlando mi. Gesù è pastore, Dio è pastore, e quello che fa un pastore è guidare. Lui guida. In Giovanni capitolo 10, versetto 1, c'è scritto questo: in verità vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. È Gesù che sta dicendo queste parole, ok? A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce. Che fanno le pecore? Ascoltano la sua voce. Ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Ma a un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù sta dicendo: io sono il pastore. E in questo capitolo sta anche dicendo: voi siete pecore. La persona che stai guardando di fronte a te è una pecora. A volte una capra, però... No, scherzo. È una pecora e tu sei parte di un gregge, e questo gregge è guidato da chi? E chi è il pastore? Vi vedo dubbiosi. Noi abbiamo un unico e solo pastore nelle nostre vite. Amen. Chi è il pastore delle nostre vite? Chi è il pastore di questa chiesa? Lo potete dire, non mi offendo, eh? Anche qualcuno sta dicendo: no, si aspetta che dica Mirko, no? E lui il pastore, mo lo disonoriamo. No, no, il pastore di questa chiesa è Gesù. Gesù è il pastore di questa chiesa. Lo dobbiamo dire forte. E chi è il pastore della tua vita? Chi è il pastore della mia vita? Gesù. Gesù è il pastore della nostra famiglia. Amen. È lui che guida, è lui che conduce, è lui che parla. E attraverso la sua parola guida. Com'è che sono condotte le pecore? Le pecore sono condotte perché Gesù parla, e nella misura con la quale le pecore ascoltano la voce, sono guidate. Vuoi vivere un anno nel quale sei guidato da Cristo Gesù? Ascolta la sua voce. È l'unico mezzo per fare la volontà di Dio, ascoltare la sua voce. Se tu vuoi vivere una vita che dipende dalle opere che Dio ha precedentemente preparato per te, che è abbondante, che va di gloria in gloria, che vede delle tappe, dei traguardi, delle conquiste che hanno un peso e una ripercussione eterna, non momentanea e terrena, allora devi ascoltare necessariamente la voce del pastore. E la voce del pastore che devi ascoltare, sottolineiamola, non è la voce del pastore Mirko Ronchi, anche se ascoltarmi non fa male, ok? Ma fin quando quello che io dico ricalca le parole di Cristo Gesù, allora quello che io dico è buono. Se io cominciassi a dire cose che non ricalcano quello che Gesù direbbe, allora sarebbe buono, utile, necessario e importante, indispensabile che tu smetti di ascoltare me e ascolti Cristo Gesù. Gesù è il nostro pastore. E io mi sento responsabile di dire queste cose perché non sono io che voglio dare la visione per l'anno della tua vita. Che quanto relativo sarebbe questo. Non sono qui davanti a te per dirti questo è quello che devi fare. Io vorrei poter dire stamattina questo è quello che Dio vuole che tu faccia. Questo è il percorso che Dio vuole che tu intraprenda. Questa è la visione che Dio ha per la tua vita. E per comprendere un po' la visione, non c'è storia e personaggi migliori da poter osservare nella parola di Dio, se non proprio il popolo di Israele nel libro di Esodo. Vi ricordate? Il libro di Esodo nel capitolo 3 ci introduce quello che è una visione che Dio ha per il popolo di Israele. La visione che Dio ha per il popolo di Israele dopo che questo è rimasto per 400 anni schiavo dell'Egitto è che sia liberato e che erediti una terra promessa dove scorre cosa? Latte e miele. Dio ha avuto questa visione, ha avuto questo desiderio per il popolo di Israele, ha comunicato questo a Mosè e Mosè si è attivato e ha mobilitato l'intero popolo in questa direzione. E la storia dell'Esodo è meravigliosa, vi incoraggio a leggere il libro dell'Esodo. Noi lì troviamo un popolo che è amato, per il quale Dio si prodiga, fa miracoli, fa prodigi, libera dall'oppressione, libera dalla schiavitù e proietta questo popolo verso la conquista di un territorio gradevole, una delizia di territorio. E questo è il desiderio che Dio ha per noi. Lui ci libera, Lui ci toglie da quella condizione di schiavitù e da quell'autonomia. Quell'autonomia che è disastrosa per le nostre vite. Quando noi viviamo autonomamente, per chi viviamo? Viviamo per la nostra carne e siamo inevitabilmente guidati da Satana. Ma quando noi siamo liberati in Cristo Gesù e viviamo con Lui, noi siamo proiettati verso la terra promessa che Lui ha per noi. Amen? Ci credi a questo? E la storia dell'Esodo va avanti ed è meravigliosa, perché dopo le 10 piaghe il popolo di Israele esce dall'Egitto, attraversa il Mar Rosso, storie che conosciamo tutti molto bene, almeno per i cartoni animati, per i film, visto, vero? Quel Mar Rosso che si apre davanti al popolo di Israele. Il popolo di Israele attraversa il Mar Rosso e si incammina nel deserto. E c'è questo passaggio che mi ha toccato quando ho riletto la storia, che si trova tra due capitoli, il capitolo 15 di Esodo e il capitolo 16 di Esodo. Perché sapete, nel capitolo 15 noi troviamo qualcosa di meraviglioso che il popolo di Israele fa. Il popolo di Israele celebra, fa festa e noi ritroviamo le parole del testo del canto che hanno elevato a Dio. Esodo 15 è un capitolo meraviglioso perché ci mostra un popolo in festa. Un popolo liberato, un popolo dove ha appena visto i propri nemici letteralmente immersi, sommersi dal mare che si è richiuso contro di loro e adesso sono liberi di poter camminare in quel percorso che Dio ha per loro e non hanno altro da poter fare se non lodare il Signore, cantare a Lui e inneggiarlo. Sapete cosa succede nel capitolo 16? Lo stesso popolo che pochi primi versi prima vediamo inneggiare a Dio, celebrare, lodare, cantare, danzare, fare musica, celebrare questa vittoria, si lamenta, si dispera e vuole sabotare completamente il percorso che sta vivendo. E addirittura arriva a dire, torniamocene in Egitto. È paradossale. Se andate a leggere questi due capitoli, ti fa ribrezzo. Dici, ma com'è possibile? Perché tu leggi queste parole di questo canto, non avrei il tempo per leggere, ma è bellissimo, dove loro dichiarano che hanno un re, che lui vince in battaglia, erano già con la mente proiettati alla terra promessa e poi per un panino mancato e un brontolino allo stomaco, perché questo è quello che è successo, hanno avuto fame, sabotano tutto e sono disposti a tornarsene indietro. Vedete, il popolo di Israele aveva una visione, ma la vivevano e l'hanno vissuta per un lungo periodo in una maniera emotiva. Se tu sei guidato dalle emozioni, non sei guidato da Dio. Se tu sei guidato dallo stomaco, non sei guidato da Dio. C'è una visione che puoi seguire e assecondare, c'è una visione per la quale invece decidi di vivere e morire. C'è una differenza tra l'immagine che noi abbiamo di Mosè e l'immagine che abbiamo del popolo di Israele. Mosè era disposto a morire per la visione che Dio le aveva affidato. Perché? Perché si era appropriato della visione che Dio aveva per la sua vita. Il popolo di Israele viveva il piacere di quello che stava accadendo, quando accadeva, ma subito dopo aveva la capacità di buttare tutto all'aria e tornarsene in Egitto sotto la schiavitù del faraone. Perché? Perché non aveva il desiderio e non era disposto a soffrire. La mia domanda a te questa mattina è: sei disposto a soffrire per la visione che Dio ha per la tua vita? Perché non c'è solo da gioire, da celebrare, da cantare, ma ci sono dei tratti di strada che vanno vissuto stringendo i denti e soffrendo completamente, sapendo che Dio rimane fedele alle promesse che fa, ma che a volte Lui non provvede il panino per la gita nella quale ti sta invitando a partecipare, l'escursione alla quale Lui ti sta rendendo partecipe. Riflettiamo un attimo su questo, perché Dio ha una visione per te, Lui ti ama, Lui ha dei traguardi, Lui ha un percorso meraviglioso, ma questo percorso prevede anche sofferenza. Perché Dio non ha dato subito la manna al popolo di Israele, non gli ha dato subito l'acqua, non gli ha dato subito quello che desideravano, non ha assecondato sempre tutti i bisogni del popolo. Perché? Perché Lui aveva talmente tanto amore per questo popolo e talmente tanto amore per i suoi figli da portarli in un percorso di crescita, non solo in un percorso nel quale Lui avrebbe provveduto al traguardo finale della conquista della terra promessa. Accetta il fatto che Dio ti sta chiamando a vivere delle conquiste, ti sta proiettando verso un traguardo meraviglioso, che Lui ha in mente per te la terra promessa, ma Lui dimostra il suo amore non solo quando apre il mare davanti a te, ma anche quando lo richiude e poi ti fa patire la fame. C'è da soffrire per la visione che Dio ha per noi. E io quest'anno non voglio solo gioire per le conquiste fatte, io voglio soffrire per quello che è la causa più alta alla quale Cristo mi ha chiamato e per la quale vuole che io viva. Sei con me in questo? Puoi dire un amen a questo? So che è difficile, so che non è facile poter dire amen a questo, ma questo è quello che noi vogliamo vivere. Fidarci di Dio quando apre il mare e fidarci di Dio quanto abbiamo fame e desidereremmo tanto tornare indietro alla nostra autonomia e alle nostre scellerate scelte. Non farlo, non tornare alla tua autonomia. Non tornare a quelle scelte scellerate. Distruggeranno il tuo percorso di vita. Distruggeranno e saboteranno completamente quello che è il piano che Dio ha per te. Scegli Cristo, fallo oggi e scegli di abbassarti alla sua volontà e soffrire per Lui. Amen. Ci piace cominciare l'anno con la sofferenza? Amen, bellissimo, sono contento che siete contenti con me. Io vorrei che la nostra chiesa non sia una chiesa che asseconda una visione e che di conseguenza vive una forma di elemosina nel vivere la visione. Elemosina nel senso negativo del termine. si elemosina quando dai le briciole, quando dai il sufficiente, quando ci sei, ma hai la possibilità di esserci, ma non ci sei più quando comincia ad essere sofferente la cosa. Io prego che la nostra Chiesa sia disposta a vivere per una visione che fa propria, come l'ha fatta Mosè, ed è disposta a vivere e a morire per essa. Amen. Abbiamo cominciato dicendo che amiamo le nazioni. Noi siamo una Chiesa che vive per la missione. Noi siamo una Chiesa che è destinata a impattare le nazioni. Amen. Perché tutta la Chiesa di Cristo è destinata a impattare le nazioni. Noi non ci vogliamo ridimensionare ad una visione che è chiusa in queste quattro mura. Noi vogliamo vivere per una causa maggiore. E se c'è una gioia negli obiettivi e traguardi raggiunti da quando sono pastore, quest'anno faccio 5 anni che sono pastore. Ci credete? 5 anni. Questo è un applauso. Ce l'hai fatta, Mirko. 5 anni che sono passati. In questi 5 anni, se c'è una cosa che mi ha entusiasmato tantissimo, è vedere persone, operai, che si sono preparati e si sono proiettati per le nazioni. Siamo contenti. Marta, Giulia, Emanuele sono nelle nazioni quali ambasciatori di Cristo, ma sono ambasciatori e rappresentano la nostra Chiesa in luoghi che sono bui, dove non arriva l'Evangelo, e loro sono lì per portarlo l'Evangelo e stanno soffrendo per l'Evangelo. Io sono grato a Dio per questo, perché insieme lo viviamo. Non è qualcosa che riguarda solo loro tre, riguarda noi come Chiesa. È il nostro rispondere al mandato che Cristo Gesù ci ha rivolto, di andare e fare discepoli di tutti i popoli. Cos'altro mi entusiasma degli ultimi 5 anni che sono pastore? Tantissime cose. Abbiamo raggiunto dei traguardi importanti. Ci sono stati tanti leader che sono cresciuti nella nostra Chiesa, che hanno preso responsabilità, che si sono messi in gioco, hanno cominciato a guidare un gruppo familiare, hanno preso la responsabilità su settori e ministeri di Chiesa, leader che non c'erano, ragazzi e ragazze, uomini e donne che hanno accettato la sfida e hanno detto: io voglio soffrire per l'avanzamento del Regno di Dio, io voglio mettere il mio tempo, i miei talenti, le mie capacità, le mie finanze per questa visione, per abbracciare la visione di Chiesa. Io sono entusiasta di queste persone, io sono entusiasta della mia squadra. Io sono grato a Dio per la squadra pastorale che noi come Chiesa abbiamo, perché è una squadra di persone che si mette in prima linea e dice: io voglio soffrire per la causa di Cristo qui a Modugno per le nazioni. Siamo grati a Dio per la squadra pastorale. Posso chiedere alla squadra pastorale di alzarsi in piedi, dovunque ti trovi, se sei parte della mia squadra, alzati in piedi ora. Vogliamo fare un applauso e onorarli per quello che loro stanno facendo. Papà! Era seduto ad applaudire loro. Meraviglioso. Siamo grati a Dio per la coppia pastorale che continua ad essere così parte della famiglia e parte del ministero. Ancora tanti sono impattati, incoraggiati. Tutta la squadra pastorale deve molto a papà e a mamma per tutto quello che non solo hanno fatto in passato, ma continuano a fare oggi. Vogliamo onorarli e ringraziare loro. Loro sono un perfetto esempio che in ogni stagione di vita puoi scegliere di servire il Signore. Qualsiasi sia il ruolo che copri, tu puoi servire il Signore. E quando papà ha scelto di avvicendarsi con me e dare a me la responsabilità, non ha smesso di servire il Signore. Non si è messo in pensione. Non ha detto: ora è il tempo che io mi metta davanti a una televisione e mi goda questo tempo e non faccia più niente. Ma io so che ci sono persone che posso guardare qui questa mattina, che nelle ultime settimane sono state benedette dal loro ministero, che continua ad essere attivo. Non è meraviglioso questo? Sii attivo nel Regno di Dio e non aspettare un titolo, una nomina, un riconoscimento per farlo. Sii attivo servendo gli altri, amando gli altri, discepolando in ogni stagione della tua vita. Ci sono altre cose che abbiamo vissuto in questi anni di cui sono così grato a Dio. Ecclesia. Dal 2017 abbiamo cominciato la conferenza Ecclesia e sono grato a Dio perché come Chiesa abbiamo scelto di incoraggiare e benedire altre Chiese nella nazione. Credo che una quarantina di Chiese sono rappresentate ad ogni conferenza di Ecclesia. Siamo grati a Dio. Dal 2017 e quest'anno, 2020, giugno 2020, abbiamo Ecclesia di nuovo in questa sala. Non sarà meraviglioso? Quindi abbiamo aspettativa di questo. Così tante altre cose. Io ho una lista nei miei appunti molto molto lunga. Percorsi di formazione. Negli ultimi anni abbiamo attivato il percorso 2 che ci aiuta a comprendere meglio che cosa significa essere membri di una chiesa. Ci aiuta a comprendere meglio che cos'è la Chiesa secondo il piano e la visione di Dio e ci permette di studiare biblicamente come noi possiamo fare in modo che la Chiesa cresca. Se non hai partecipato al percorso 2, ti invito a farlo. Il percorso 3 è un equipaggiamento per le persone che vogliono crescere a livello ministeriale e vogliono permettere a Dio di servirsi di loro da protagonisti. Se non hai fatto il percorso 3, ti invito a farlo. E questi percorsi sono qualcosa di meraviglioso. Fatti tutti e tre, ci permettono di crescere e di maturare scelte importanti e conoscenze che ci danno l'opportunità di servire il Signore meglio e di essere parte di questa Chiesa al 100%. Chi è che ha partecipato al percorso 2? Posso vedere le vostre mani? Meraviglioso. Quanti hanno partecipato al percorso 3? Meraviglioso. Se non l'hai ancora fatto, fallo, mi sa che parte a gennaio, il 20 di gennaio. Quali altre cose potrei accennare? Abbiamo assunto Luigi a tempo pieno. Abbiamo assunto Luigi a tempo pieno in questi anni perché crediamo nelle nuove generazioni e vogliamo investire nelle nuove generazioni e vogliamo permettere che i bambini siano benedetti. Amen. Siamo grati a Dio per questo. Lo stiamo facendo insieme. Ogni volta che tu dai, la tua decima, la tua offerta, tu stai dicendo io partecipo alla realizzazione di questa visione. Io voglio che questa visione vada avanti, prosperi e che cresca negli anni a venire. C'è un'altra cosa che è stata sorprendente ed è stata anche imprevista per me. Ed è stato il fatto che Dio ha aperto una porta dove le porte sembravano completamente chiuse. E riguarda il progetto della nuova sala, noi lo chiamiamo centro polifunzionale perché sarà un centro polifunzionale. Forse non tutti sapete, ma noi abbiamo acquistato anni fa, decine di anni fa, un terreno di 15.000 metri quadri, se non sbaglio, di 15.000 metri quadri, Pinuccio lo saprebbe meglio, quindi li conosce tutti, uno a uno questi metri quadri, 15.000 metri quadri in un luogo strategico di Modugno, pensate un po', in via Paradiso. Dove vorresti tu una chiesa se non in via Paradiso a Modugno? E noi abbiamo questo terreno che è stato acquistato in fede anni fa da un gruppo di credenti molto piccolo che ha sognato la realizzazione di un edificio che ospiti 1.000 persone. Vi rendete conto che fede avete avuto per chi c'era e hanno avuto perché altri non sono più in mezzo a noi e sono in gloria, ma hanno investito per questo progetto. Le porte erano chiuse. Ci è stato detto un no categorico alla realizzazione di questo progetto perché la viabilità non era adatta e non c'era modo di uscirne fuori. Se non per quale casualità, no, non è proprio una casualità, Pinuccio è rimasto dietro, Pinuccio ha continuato a sognare, Pinuccio ha continuato a operare, così Antonio, vogliamo ringraziarli per questo, il nostro geometra, architetto e Gianna anche, che si sta prodigando tantissimo. E queste persone hanno trovato una strada, letteralmente, per realizzare questo progetto. E abbiamo avuto l'opportunità 2 anni fa di fermarci in un tavolo tecnico con il comune, con i dirigenti dell'ASI e noi abbiamo con un legale presentato una possibilità. una possibilità che è stata accettata e quindi noi adesso abbiamo l'opportunità di realizzare un centro polifunzionale che ospiterà più di 1000 posti a sedere, un auditorium enorme e tante attività che potremo avere in quel luogo. Come lo realizzeremo? Io non ho la più pallida idea. Perché 10 anni fa il progetto prevedeva il costo di 1 milione di euro, no? E quindi io mi ricordo, ero piccolino, già si parlava di queste cifre, dicevano vabbè, Dio provvederà, ci porterà un miliardario in chiesa e in un qualche modo. Ora il progetto costa ancora di più, siamo sulla cifra di 2 milioni di euro e noi non abbiamo neanche 200.000 euro. A dire il vero, avremo difficoltà a ricavare 2.000 euro. Quindi come intraprendiamo questa strada? Per fede. Se Dio ha aperto questa porta, noi la continuiamo a perseguire. E stiamo facendo le cose che sono illogiche, perché avrei così tanto da dirvi a riguardo, ma nulla è logico. Ma noi camminiamo per fede. Noi, la nostra visione che intraprendiamo come Chiesa non è perché i conti tornano, non è perché tutto è chiaro, tutto è nelle nostre forze, è Dio che provvede e noi ci fidiamo di Lui. E se Lui ha scelto 2000 anni fa di riaprire questa porta, noi oggi vogliamo credere che Dio farà la strada. Amen. Noi vogliamo dare il nostro e Dio provvederà il resto. Amen. Ciò che però mi entusiasma più di ogni altra cosa è l'obiettivo più alto che siamo riusciti a raggiungere in questi ultimi anni come Chiesa. Sapete qual è? Sapete qual è la cosa per la quale io dico sì, per questo vale la pena di vivere e morire? Sapete qual è la cosa che più mi fa dire vale la pena piangere, vale la pena soffrire, vale la pena spendermi completamente, non dormire la notte, avere scrampi allo stomaco, vale la pena tutto. Sapete qual è l'obiettivo che insieme abbiamo raggiunto come Chiesa, che mi rende entusiasta e so che rende entusiasta anche Dio in una maniera grandissima? Sapete qual è? La salvezza di una persona, la salvezza di un'anima dall'inferno. Posso chiedere a chi negli ultimi 5 anni, da quando sono pastore, si è battezzato, di alzarsi in piedi? C'è qualcuno che negli ultimi 5 anni si è battezzato? L'anno scorso? Oh, a sgoccioli. Meraviglioso. È vero, pure tu, rimani in piedi. Rimani in piedi, in prima fila. È per questo che vale la pena. È per questo che vale la pena. È per questo che noi facciamo tutto quello che facciamo. Per la salvezza di un... Prendo lui, ok? Vi siete alzati, ma lui è in prima fila. Per la salvezza di un ragazzo, per la salvezza di un'anima, per un destino che è riscattato da una via infernale a una via gloriosa e meravigliosa. Per Giuseppe è valso tutto. Per Giuseppe, e puoi vedere che ci sono più persone, Raffaella, Michele. Ci sono più persone che si sono alzate in piedi, Karen, per questo vale la pena. Fratelli, sorelle, è per questo che noi viviamo. Noi viviamo per la salvezza di un'anima. E se anche una sola anima fosse il risultato di ogni sforzo, di ogni lotta, di ogni preghiera, ne varrebbe la pena. Ne varrebbe la pena, perché è per un'anima che il cielo festeggia, è per un'anima che Dio dice che l'intera schiera di angeli si mette in festa. Ve lo voglio leggere, lo conoscete, il verso che troviamo in Luca 15, versetto 7, Gesù che dice: vi dico che allo stesso modo ci sarà più gioia in cielo per un solo. Quanto amo la parola di Dio. No, non per una folla, non per migliaia, non per centinaia, non per decine, per un solo peccatore. Per un solo peccatore il cielo fa festa, per un solo peccatore che si ravvede. C'è festa, che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento, Il cielo sta festeggiando oggi, non tanto per me e per te, sta festeggiando per coloro che vengono a salvezza. Sapete qual è la visione per questo nuovo anno? Uno in più. Uno in più. Uno in più. Uno in più. Noi viviamo per uno in più, perché uno vale. Uno vale. Noi soffriamo, noi serviamo, noi facciamo quello che facciamo per la salvezza di uno in più. E non sono lacrime a comando. È la compassione che Dio mette nel nostro cuore. Dio vuole servirsi di te per uno in più. Non per delle attività più belle, non per stare meglio noi, non affinché qualcuno ci soccorra sempre quando abbiamo bisogno. Sì, la Chiesa vive per questo. La Chiesa è una tua famiglia. Sei benvenuto qui e vogliamo aiutarti, soccorrerti, amarti. Ma se c'è una missione che la Chiesa ha, sono i perduti. E a volte ne vale la pena che noi, 99 pecore, siamo un po' trascurati, siamo un po' delusi, siamo un po' scoraggiati, abbiamo un po' il brontolio allo stomaco, affamati. Ma che non si perda mai la visione che la Chiesa ha, che è la missione di raggiungere anime perdute. A questo noi ci dedicheremo. È una priorità che Gesù dà a noi. Una persona in più. Noi vogliamo una persona in più. E io spero che questa visione tu non la possa assimilare stamattina come una visione globale di Chiesa, ma che sia tua personale, che tu possa vivere questo nuovo anno per dire: io in questo nuovo anno voglio vivere per la causa di una persona strappata dalle grinfie di Satana, portata al ravvedimento e discepolata ad essere un cristiano maturo che sceglie per Cristo al 100%. Io per questo voglio vivere. Io per questo voglio prodigarmi, perché non c'è gioia più grande nel cielo e non c'è gioia più grande nella terra di quella di vedere una persona in più salvata. Sei con me in questo? Vogliamo alzarci in piedi? Mentre chiudiamo gli occhi, io voglio leggere per noi delle parole che conosciamo molto bene e sono il mandato, il grande mandato. È grande perché è eccelso, è meraviglioso, perché è dato da un grande Dio che ha un grande cuore. E io prego che tu possa far tue queste parole per questo nuovo anno. Chiudete gli occhi con me. Voglio leggere quello che c'è scritto in Matteo 28 dal versetto 18. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Se stamattina dici: io voglio vivere per il grande mandato, che Dio ha per noi come Chiesa e per me quale suo figlio, ti chiedo di alzare le tue mani. Non devi farlo per obbligo, non devi farlo perché te lo sto chiedendo, ma se quello che tu vuoi vivere in questo nuovo anno che ci sta davanti e negli anni che ci stanno davanti, allora ti chiedo di alzare le tue mani quale segno di arresa, e voglio pregare per noi. Padre, io vengo davanti a te per chiederti di darci la grazia in questo nuovo anno di vedere una persona in più salvata, una persona in più, che ognuno di noi con le proprie mani alzate, arrese a te, possa essere protagonista di questa visione, che per questa visione possa soffrire, che per questa visione possa essere disposto ad abbandonare ogni agio, ogni cosa confortevole. Io prego che ognuno di noi possa vivere quella che è la più grande, la più meravigliosa terra promessa che si possa vivere, la conquista di un'anima, la conquista di un tuo figlio, una tua figlia per l'eternità, strappata dal destino di inferno eterno, strappata dal destino di Satana nel vivere nella carne, nei propri desideri. Io prego, Padre, che tu ci possa dare grazia in questo anno di vedere una persona in più salvata attraverso l'opera che affidi a noi. Serviti di noi, siamo qui per dirti: sia fatta la tua volontà attraverso le nostre vite. Guidaci verso quella persona. Equipaggiaci per essere efficaci nel discepolato al quale tu ci chiami. E che ogni nazione, ogni etnia diversa possa conoscere il tuo nome, Gesù Cristo. Serviti di noi, questa è la mia preghiera, e benedico questo nuovo anno per ognuno di noi. Ti chiedo che come Chiesa possiamo essere arresi a te, un gregge che segue il proprio pastore, e possiamo fare la tua volontà, lottare, pregare, soffrire affinché uno in più ci sia dato. Nel nome di Gesù prego questo. Amen. Amen. Puoi fare tu ora la tua preghiera. Mentre adoriamo con un coro insieme, prega a Dio. Prega a Dio che ti possa mettere compassione, se magari ti manca compassione, che ti possa ispirare affinché tu possa essere guidato nel percorso che Lui ha segnato per te. Fai di questo un momento di arresa dove permetti a Dio di guidarti. Facciamolo insieme.